Sulle orme del Signore. Ego sum via, veritas et vita. Io sono la via, la verità e la vita. Con queste inequivocabili parole il Signore ci ha indicato qual è il sentiero autentico che conduce alla felicità eterna. Ego sum via. Egli è l'unico cammino che congiunge cielo e terra. Lo proclama a tutti gli uomini, ma lo ricorda soprattutto a noi, a te e a me, che gli abbiamo detto di essere decisi a prendere sul serio la vocazione dei cristiani, in modo che Dio si trovi sempre presente nei nostri pensieri, sulle nostre labbra e in tutte le nostre azioni, anche le più umili e consuete. Gesù è la via. Egli ha lasciato su questa terra le chiare impronte dei suoi passi, tracce indelebili che né il logorio del tempo né la perfidia del nemico sono riusciti a cancellare. Jesus Christus eri et odie, ipse et in secula. Come mi piace ricordarlo. Gesù Cristo, lo stesso che ieri fu per gli apostoli e le folle che correvano a lui, vive oggi per noi e vivrà nei secoli. Siamo noi uomini, talvolta, a non riuscire a scoprire il suo volto perennemente attuale perché guardiamo con occhi stanchi ed offuscati. Adesso, all'inizio di questo tempo di orazione, accanto al tabernacolo, chiedigli, come il cieco di cui parla il Vangelo, «Domine ut videam, Signore, che io veda. Fa che la mia intelligenza si riempia di luce per consentire alla tua parola di penetrare nella mia mente e fa che la tua vita metta radici nella mia anima per trasformarmi in vista della gloria eterna». Il cammino del cristiano. Come sono trasparenti gli insegnamenti di Cristo. Ancora una volta apriamo il Nuovo Testamento per soffermarci sul capitolo 11 di San Matteo. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Vedi, dobbiamo imparare da Lui, da Gesù, nostro unico modello. Se vuoi andare avanti al riparo da inciampi e da smarrimenti, non devi fare altro che passare dove egli è passato, usare i suoi piedi sulle sue orme, addentrarti nel suo cuore umile e paziente, bere alla fonte dei suoi comandamenti e dei suoi sentimenti. In una parola, devi identificarti con Gesù Cristo, devi cercare di diventare davvero un altro Cristo in mezzo agli uomini tuoi fratelli. Ma perché nessuno sia tratto in inganno, leggiamo un altro brano del Vangelo di San Matteo. Nel capitolo 16 il Signore precisa ulteriormente la sua dottrina. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Il cammino di Dio è cammino di rinuncia, di mortificazione, di dedizione, ma non di tristezza o di pusillanimità. Ripercorri l'esempio di Cristo, dalla culla di Betlemme al trono del Calvario. Considera la sua abnegazione, le sue privazioni, fame, sete, fatica, caldo, sonno, maltrattamenti, incomprensioni, lacrime, e la sua gioia di salvare l'umanità tutta. Vorrei ora incidere profondamente nella tua mente e nel tuo cuore, perché tu lo possa meditare molto spesso, traendone conseguenze pratiche, l'invito riassuntivo a seguire senza tentennamenti i passi del Signore rivolto a San Paolo agli Efesini. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per voi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Gesù ha dato se stesso, offrendosi in olocausto per amore, e tu, discepolo di Cristo, tu figlio prediletto da Dio, tu che sei stato riscattato per mezzo della croce, anche tu devi essere disposto a rinunciare a te stesso. Pertanto, in qualunque circostanza concreta ci veniamo a trovare, né tu né io possiamo comportarci da egoisti, da imborghesiti, da pigri, da dissipati, perdono la chiarezza, da stolti. Se ambisci alla stima degli uomini, se brami deferenze e apprezzamenti e non cerchi altro che una vita piacevole, sei fuori strada. Nella città dei santi è consentito entrare, riposare e regnare col re per l'eternità dei secoli, soltanto a chi ha percorso la via difficile, angusta e stretta delle tribolazioni. È necessario che ti decida a prendere la croce sulle spalle, altrimenti dirai a parole di imitare Cristo, ma sarai smentito dai fatti. Così non entrerai nell'intimità del Maestro e non lo amerai davvero. È urgente per noi cristiani convincerci bene di questa verità. Non camminiamo accanto al Signore se non sappiamo privarci spontaneamente di tante cose richieste dal capriccio, dalla vanità, dalla comodità, dall'interesse. Neppure una giornata deve trascorrere senza il condimento della grazia e del sale della mortificazione. E devi respingere l'idea che tutto ciò renda infelice. Meschina felicità sarà la tua se non impari a vincere te stesso, se ti lasci schiacciare e dominare dalle tue passioni e dalle tue velleità, invece di prendere con coraggio la tua croce. Mi torna alla memoria, e di certo qualcuno di voi avrà già sentito questa riflessione in altre meditazioni, il sogno narrato da uno scrittore castigliano del secolo d'oro. Davanti a lui si aprono due strade. Una appare ampia e agevole, facile, fornita di luoghi di ristoro e di locande e di altri alloggi comodi ed allegri. È percorsa da gente a cavallo in carrozza, in mezzo a musiche, risate, pazze, sgangherate. Si vede una folla ubriaca di gioia apparente, effimera, perché il cammino sbocca su un precipizio senza fondo. È la via dei mondani, degli eterni borghesi. Ostentano un'allegria che in realtà non hanno. Cercano insaziabilmente ogni sorta di comodità e di piaceri. Hanno orrore per il dolore, la rinuncia, il sacrificio. Non vogliono saperne della croce di Cristo, la ritengono una follia. Ma sono loro i pazzi. Schiavi dell'invidia, della gola, della sensualità, alla fine soffrono di più e troppo tardi si rendono conto di aver fatto un cattivo affare, barattando la felicità terrena e quella eterna con una bagatella insipida. Il Signore ci previene: chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Qual vantaggio, infatti, avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero? E poi perderà la propria anima. In quel sogno un altro sentiero si apre in diversa direzione. È così stretto e ripido che è impossibile percorrerlo a dorso di mulo. Chi lo affronta procede a piedi, a zigzag, sereno in volto in mezzo a cardi pungenti e schivando dirupi. In certi passaggi i viandanti lasciano brandelli delle loro vesti e anche della propria carne. Ma alla fine li accoglie un giardino delizioso, la felicità eterna, il paradiso. È la via delle anime sante che si umiliano, che volentieri, per amore a Cristo, si sacrificano per gli altri. È il percorso di chi non ha paura di andare in salita, addossandosi con amore alla croce, per quanto pesante, perché sanno che se il peso li fa vacillare, potranno rialzarsi e continuare a salire. Cristo è la forza di questi viandanti. Che importa inciampare se nel dolore della caduta ritroviamo l'allegria che ci raddrizza di nuovo e ci spinge a proseguire con slancio rinnovato? Non dimenticare che santo non è chi non cade, ma chi si rialza sempre con umiltà, con santa ostinazione. Se nel libro dei Proverbi si legge che il giusto cade 7 volte al giorno, tu e io, povere creature come siamo, non dobbiamo né meravigliarci né scoraggiarci di fronte alle nostre miserie personali, ai nostri inciampi, perché potremo sempre proseguire se cerchiamo la forza in colui che ci ha promesso: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Grazie, Signore, quia tu es Deus, fortitudo mea, perché sei sempre stato tu e soltanto tu, mio Dio mio, la mia fortezza, il mio rifugio e il mio sostegno. Se davvero vuoi progredire nella vita interiore, sii umile. Ricorri con costanza, con fiducia all'aiuto del Signore e della sua Madre benedetta, che è anche tua madre. Con serenità, tranquillamente, per quanto possa farti male la ferita ancora non rimarginata del tuo ultimo scivolone, abbraccia di nuovo la croce e ripeti: Signore, con il tuo aiuto lotterò per non fermarmi, risponderò fedelmente ai tuoi inviti, senza paura dei ripidi pendii, né dell'apparente monotonia del lavoro abituale, né dei cardi e dei rovi del sentiero. Sono certo che la tua misericordia mi assiste, che al termine del cammino troverò la felicità eterna, la gioia e l'amore per l'infinità dei secoli. Poi, sempre in quel sogno, lo scrittore scopriva un terzo itinerario, angusto, anch'esso costellato di asperità e di dure salite come il secondo. Era percorso da alcune persone che procedevano fra mille sofferenze, ma con aria solenne e maestosa. Eppure finivano nello stesso orribile precipizio al quale conduceva il primo sentiero. È il cammino degli ipocriti, di coloro che sono privi di rettitudine e di intenzione, che sono mossi da un falso zelo e pervadono le opere divine mescolandole con egoismi temporali. È stolto intraprendere un'impresa difficile per essere ammirati. Osservare i comandamenti di Dio con molto sforzo, aspirare ad una ricompensa terrena. Chi si promette benefici umani dall'esercizio delle virtù è come chi svende un oggetto prezioso per pochi spiccioli. Poteva conquistare il cielo e invece si accontenta di un'effimera lode. Per questo si dice che le speranze degli ipocriti sono come una ragnatela. Tanta fatica per tesserla e alla fine il vento della morte se la prende in un soffio. Con lo sguardo alla meta. Se vi richiamo queste forti verità è per invitarvi ad esaminare attentamente i moventi del vostro comportamento per rettificare ciò che deve essere rettificato, indirizzando tutto al servizio di Dio e degli uomini vostri fratelli. Badate che il Signore ci è passato accanto, ci ha guardato con affetto e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua grazia. Grazia che ci è stata data in Gesù Cristo fin dall'eternità. Purificate l'intenzione, svolgendo tutte le vostre occupazioni per amore verso Dio, abbracciando con gioia la croce di ogni giorno. L'ho ripetuto mille volte perché ritengo che queste idee devono restare scolpite nel cuore dei cristiani. Quando non ci limitiamo a tollerare e invece amiamo le contrarietà, il dolore fisico o morale, e lo offriamo a Dio in riparazione per i nostri peccati personali e per i peccati di tutti gli uomini, vi assicuro che allora la pena non opprime. In questo caso non si porta una croce qualsiasi, si scopre la croce di Cristo con la consolazione di constatare che è il Redentore ad offrirsi di portarne il peso. Noi collaboriamo come Simone di Cirene, che mentre rientrava dal lavoro, dai campi, pensando al meritato riposo, si trovò costretto a porgere la spalla per aiutare Gesù. A essere il volontario cireneo di Cristo, accompagnare così da vicino la sua dolente umanità, ridotta a un cencio, per un'anima immamorata non è una disgrazia, comporta la certezza che Dio è vicino e ci benedice con la sua chiamata. Molto spesso parecchia gente mi ha commentato con stupore l'allegria che grazie a Dio i miei figli dell'Opus Dei hanno e diffondono. Dinanzi a questa evidenza do sempre la stessa spiegazione, perché non ne conosco altra. Il fondamento della loro felicità consiste nel non avere paura della vita né della morte, nel non abbattersi nelle afflizioni, nello sforzo quotidiano di vivere con spirito di sacrificio, sempre disposti, nonostante la miseria e la debolezza personali, a non concedere nulla a se stessi per rendere più agevole e gradevole agli altri il vivere da cristiani. Come il battito del cuore. Mentre vi parlo, so che voi, alla presenza di Dio, cercate di esaminare la vostra condotta. Non è vero che la maggior parte dei dispiaceri che hanno inquietato la tua anima, delle tue mancanze di pace, derivano dal non avere corrisposto agli inviti divini. O meglio, derivano dal fatto che forse stavi percorrendo il sentiero degli ipocriti perché ricercavi te stesso? Nel tristo tentativo di mantenere davanti a chi ti sta dinanzi la mera apparenza di un comportamento cristiano, nel tuo intimo rifiutavi di accettare la rinuncia, di mortificare le tue contorte passioni, di darti senza condizioni, con abnegazione, come Gesù Cristo. Guardate che in questi momenti di meditazione, davanti al tabernacolo, non vi potete limitare ad ascoltare le parole che il sacerdote pronuncia come per materializzare l'orazione intima di ciascuno. Io ti porgo delle considerazioni, ti regalo, ti segnalo alcuni spunti, perché tu possa cogliere attivamente, rifletterci per tuo conto e trasformarli in argomento di colloquio personalissimo e silenzioso fra Dio e te, in modo da applicarli poi alla tua attuale situazione e con le luci che il Signore ti offre poter distinguere nella tua condotta ciò che va dritto e ciò che ha preso una brutta strada per rettificare con la sua grazia. Ringrazia il Signore per tante opere buone che hai compiuto, disinteressatamente, perché puoi cantare con il salmista: mi ha tratto dalla fossa della morte, dal fango della palude. I miei piedi hanno stabilito sulla roccia, hanno resi sicuri i miei passi. Chiedigli inoltre perdono per le tue omissioni o per aver messo i piedi in fallo quando ti sei cacciato nel deplorevole labirinto dell'ipocrisia, affermando di volere la gloria di Dio e il bene del tuo prossimo, mentre in realtà onoravi te stesso. Sii audace, sii generoso e digli: mai più defraudare ulteriormente il Signore e l'umanità. È il momento di ricorrere alla Madonna, tua Madre Celeste, perché ti accolga fra le sue braccia e ti ottenga da suo figlio uno sguardo di misericordia, e cerca subito di formulare propositi concreti. Taglia finalmente, anche se fa male, quell'ostacolo piccolo che Dio e tu ben conoscete: la superbia, la sensualità, la mancanza di senso soprannaturale. Faranno combutta per sussurrarti proprio quello: ma sei una sciocchezza, una cosa di poco conto. Tu rispondi, senza dialogare con la tentazione: mi piegherò obbedendo anche a questa richiesta divina. Non te ne mancheranno i motivi. L'amore si dimostra in modo particolare nelle piccole cose. Normalmente i sacrifici che il Signore ci chiede, i più impegnativi, sono piccoli, ma continui, preziosi come il battito del cuore. Quante mai hai conosciuto che siano state protagoniste di un episodio eroico straordinario? Poche, pochissime, eppure di madri eroiche, veramente eroiche, che non figurano in nessuna cronaca spettacolare, che non faranno mai notizia, come si dice. Tu e io ne conosciamo molte. Vivono in continua abnegazione, sacrificando con gioia i loro gusti e le loro inclinazioni, il loro tempo, le loro possibilità di affermazione o di successo, per tappezzare di felicità i giorni dei loro figli. Continuiamo negli esempi, tratti sempre dalla vita quotidiana. San Paolo ricorda: ogni atleta è temperante in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. Guardatevi attorno, osservate quanti sacrifici si sottomettono, di buon grado o controvoglia, uomini e donne, per curare il loro corpo. Non ci lasceremo scuotere dall'immenso amore di Dio, così mal corrisposto dall'umanità, per mortificare ciò che deve essere mortificato, affinché la nostra mente e il nostro cuore siano più solleciti ai cenni del Signore? Il senso cristiano è stato talmente stravolto in molte coscienze che a sentir parlare di mortificazione e di penitenza si pensa solo ai grandi digiuni e ai cilici che vengono menzionati nelle mirabolanti biografie di certi santi. All'inizio di questa meditazione abbiamo posto la chiara premessa di dover imitare Gesù Cristo, prendendolo a modello della nostra condotta. Di certo egli preparò l'esordio della sua predicazione con un ritiro nel deserto, digiunando per 40 giorni e 40 notti. ma prima e dopo praticò la virtù della temperanza con tanta naturalezza che i suoi nemici ne approfittarono per calunniarlo, tacciandolo di mangione e beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Desidero che scopriate in tutta la sua profondità la semplicità del Maestro, che non fa sfoggio della sua vita penitente e a te chiede spesso la stessa cosa. Quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti che si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo padre che è nel segreto, e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. È così che ti devi esercitare nello spirito di penitenza, al cospetto di Dio e come un figlio, come il bambino che dimostra quando vuol bene a suo padre, rinunciando ai suoi piccoli tesori di nessun valore, un rocchetto, un soldatino senza testa, un tappo di bottiglia. Gli costa decidersi, ma alla fine l'affetto prevale e apre la mano soddisfatto. Consentimi di ribadirvi ancora una volta il concetto che Dio si attende che ciascuno di noi percorra, avendoci chiamato a servirlo in mezzo al mondo, per santificare e santificarci per mezzo delle occupazioni abituali. Con un formidabile buon gusto e buon senso, ma pieno di fede, San Paolo ricordava che nella legge di Mosè sta scritto: «Non metterai la museruola al bue che trebbia». E si domandava: forse Dio si dà pensiero dei buoi, oppure lo dice proprio per noi. Certamente fu scritto per noi, perché colui che ara deve arare nella speranza di avere la sua parte, come il trebbiatore trebbiare nella stessa speranza. La vita cristiana non va mai ridotta ad un opprimente intrico di doveri che sottopone l'anima ad un'esasperata tensione. Si modella nelle sulle circostanze personali come il guanto sulla mano. E richiede che nelle nostre occupazioni abituali, grandi o piccole che siano, per mezzo dell'orazione e della mortificazione, non si perda mai il punto di mira soprannaturale. Ricordate che Dio ama appassionatamente le sue creature, e come potrà l'asinello lavorare se non gli si dà da mangiare, se non può disporre di un po' di tempo per ritemprare le forze o se si spezza il suo vigore con troppe bastonate? Il tuo corpo è come un asinello. E un asinello è stato il trono di Dio all'ingresso di Gerusalemme, che ti porta in Europa per i cammini diversi, per i cammini divini della terra. Spirito di penitenza, ti stai risolvendo a formulare propositi sinceri? Chiedi al Signore che ti aiuti a incomodarti per amore suo, a mettere in tutto con naturalezza il profumo della mortificazione che purifica. A spenderti al suo servizio senza spettacolo, silenziosamente, come si consuma la lampada che palpita accanto al tabernacolo. E se per caso in questo momento non ti riesce di vedere come rispondere concretamente alle divine richieste che bussano al tuo cuore, ascoltami bene. Penitenza è osservare esattamente l'orario che ti sei prefisso, anche se il corpo oppone resistenza o la mente chiede di evadere in sogni chimerici. Penitenza è alzarsi all'ora giusta e anche non rimandare, senza giustificato motivo, quella certa cosa che ti riesce più difficile o più pesante delle altre. La penitenza è saper compaginare i tuoi doveri verso Dio, verso gli altri e verso te stesso, essendo esigente con te stesso, per riuscire a trovare il tempo che occorre per ogni cosa. Sei impenitente quando segui amorosamente il tuo piano di orazione, anche se sei stanco, svogliato o freddo. Penitenza è trattare sempre con la massima carità il prossimo, a cominciare dai tuoi cari, e prendersi cura con la massima delicatezza di coloro che sono sofferenti, malati, afflitti, e rispondere pazientemente alle persone noiose e importune. E interrompere o modificare i nostri programmi quando le circostanze, gli interessi buoni e giusti degli altri soprattutto, lo richiedono. La penitenza consiste nel sopportare con buon umore le mille piccole contrarietà della giornata, nel non interrompere la tua occupazione anche se in qualche momento viene meno lo slancio con cui l'avevi incominciata, nel mangiare volentieri ciò che viene servito senza importunare con capricci. Penitenza per i genitori e in genere per chi ha un compito di direzione educativo e correggere quando è necessario, secondo il tipo di errore e le condizioni di chi deve essere aiutato, passando sopra i soggettivismi sciocchi e sentimentali. Lo spirito di penitenza induce a non attaccarsi disordinatamente al monumentale abbozzo di progetti futuri, nel quale abbiamo già previsto quali saranno le nostre mosse e le nostre pennellate da maestro. Come è contento il Signore quando sappiamo rinunciare ai nostri sgorbi e alle nostre macchie pseudo-magistrali e consentiamo a Lui di aggiungere i tratti e i colori che preferisce. Potrei continuare a segnalarti una quantità di particolari, ti ho elencato solo quelli che mi sono venuti in mente sul momento, che puoi mettere a frutto lungo la giornata per avvicinarti sempre di più a Dio e sempre di più al prossimo. E se ti ho ricordato questi esempi, ripeto, non è perché io disprezzi le grandi penitenze, al contrario, esse si rivelano sante e buone e anche necessarie quando il Signore chiama le anime per questa strada, purché abbiano l'approvazione di chi le dirige. Ma ti avverto che le grandi penitenze sono compatibili anche con le cadute spettacolari provocate dalla superbia. Invece, con il continuo desiderio di piacere a Dio nelle piccole battaglie personali, ad esempio sorridere quando non se ne ha voglia, e vi posso assicurare che talvolta un sorriso costa più di un'ora di cilicio, è difficile da spago all'orgoglio, alla ridicola ingenuità di considerarci eroi illustri. Ci vediamo come bambini capaci di offrire al loro padre soltanto delle cose da nulla, che però sono ricevute con immensa gioia. Allora il cristiano deve sempre essere mortificato? Sì, ma per amore, perché il tesoro della vostra vocazione lo portiamo in vasi di creta, perché appaia che la potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Forse fino a questo momento non ci eravamo sentiti spinti a seguire così da vicino le orme di Cristo. Forse non ci eravamo resi conto che possiamo unire al suo sacrificio redentore le nostre piccole rinunce. Per i nostri peccati, per i peccati degli uomini di ogni tempo, per il malvagio lavoro di Lucifero che continua ad apporre a Dio il suo non serviam. Come oseremo dire senza ipocrisia, Signore, mi fanno male le offese che feriscono il tuo amabilissimo cuore, se non saremo decisi a privarci di una piccola cosa, ad offrire un piccolo sacrificio al lode del suo amore? La penitenza, vera riparazione, ci lancia sul cammino della dedizione, della carità, dedizione per riparare e carità per aiutare gli altri, come Cristo ha aiutato noi. Da ora in poi abbiate fretta di amare. L'amore impedirà di lamentarci, di protestare, perché spesso sopportiamo le contrarietà, è vero, però ci lamentiamo e allora, oltre a sprecare la grazia di Dio, gli impediamo in futuro di continuare ad essere esigente con noi. Il remenim datorem diligit Deus. Dio ama chi dona con gioia, con la spontaneità che nasce da un cuore innamorato, senza le smancerie di chi si dona come per fare un piacere. Rivolgi nuovamente lo sguardo alla tua vita e chiedi il perdono per questo e per quel particolare che immediatamente saltano agli occhi della tua coscienza, per il cattivo uso che fai della lingua, per quei pensieri che girano continuamente intorno a te stesso, per il giudizio critico a cui consenti e che scioccamente ti preoccupa, provocandoti una perenne inquietudine, una continua agitazione. Convincetevi che potete essere molto infelici, molto felici. Il Signore ci vuole contenti, ebri di gioia, camminando sugli stessi avventurosi sentieri da lui percorsi. Ci sentiamo infelici soltanto quando ci impegniamo ad andare fuori strada e imbocchiamo la via dell'egoismo e della sensualità. E avviene di peggio se ci immettiamo sul sentiero degli ipocriti. Il cristiano deve mostrarsi autentico, verace, sincero in tutte le sue opere. Il suo comportamento deve lasciar trasparire uno spirito, quello di Cristo. Se al mondo c'è qualcuno che deve mostrarsi coerente, questo è il cristiano, perché ha ricevuto in deposito per farlo fruttificare il dono della verità che libera e che salva. Forse qualcuno mi domanderà: Padre, come riuscirò a mantenere e a ottenere questa sincerità di vita? Gesù Cristo ha consegnato alla sua Chiesa tutti i mezzi necessari. Ci ha insegnato a pregare, a entrare in rapporto col Padre suo che è nei cieli. Ci ha mandato il suo Spirito, il grande sconosciuto, che agisce sulla nostra anima, e ci ha lasciato quei segni visibili della grazia che sono i sacramenti. Usali, intensifica la tua vita di pietà, fa orazione tutti i giorni e non sottrarre mai la tua spalla al dolce peso della croce del Signore. È stato Gesù a invitarti a seguirlo da buon discepolo, perché tu possa compiere il tuo passaggio sulla terra seminando la pace e la gioia che il mondo non può dare. Per questo, ripeto, dobbiamo camminare senza paura della vita e senza paura della morte, senza rifuggire a ogni costo dal dolore, che per il cristiano è sempre mezzo di purificazione e occasione per amare davvero i fratelli, utilizzando le mille occasioni della vita quotidiana. Il tempo della meditazione è terminato. Devo concludere queste considerazioni con le quali ho cercato di toccare la tua anima, perché tu reagissi con alcuni propositi concreti, pochi ma ben precisi. Pensa che Dio ti vuole contento e che se da parte tua farai il possibile, sarai felice, molto felice, felicissimo, anche se in nessun momento ti mancherà la croce. Ma la croce non è più un patibolo, è il trono dal quale Cristo regna, e accanto c'è sua madre, che è anche madre nostra. La Vergine Santa ti otterrà la fortezza di cui hai bisogno per camminare con decisione sulle orme di suo Figlio.